Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto. Guarda e vedi il nostro ludibrio. La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a sconosciuti. Orfani siamo diventati, senza padre. Le nostre madri sono come vedove. Beviamo la nostra acqua a prezzo d'argento. Acquistiamo a pagamento la nostra legna. Con un giogo sul collo siamo inseguiti. Siamo esausti e non ci è dato riposo. All'Egitto abbiamo teso la mano, alla Siria, per saziarci di pane. I nostri padri hanno peccato e non sono più. A noi sono addossate le loro colpe. Schiavi signoreggiano su noi. Nessuno può strapparci dalle loro mani. A rischio della nostra vita ci procuriamo il pane dinanzi alla spada del deserto. La nostra pelle si è screpolata come un forno per l'ardore della fame. Alle donne hanno fatto oltraggio in Sion, alle vergini nella città di Giuda. Hanno impiccato i nobili con le loro mani. Non è stato onorato il volto dei vegliardi. I giovani sono stati aggiogati alla macina di grano. I ragazzi sono caduti sotto il carico di legna. I vegliardi hanno cessato di adunarsi alla porta. I giovani hanno cessato le loro canzoni. È finita la gioia del nostro cuore. Si è volta in lutto la nostra danza. È caduta la corona dal nostro capo. Guai a noi che abbiamo peccato. Per questo si è ammalato il nostro cuore, per questo si sono intorbiditi i nostri occhi. Per il monte Sion che è desolato, lo percorrono le volpi. Ma tu, Signore, resti per sempre. Il tuo trono è di generazione in generazione. Perché ci dimenticherai in eterno? Ci abbandonerai per la lunghezza dei giorni? Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Rinnova i nostri giorni come in antico. Poiché non ci rigetti definitivamente, né sei sdegnato oltre misura contro di noi.